il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Si avvicina la primavera e ricominceranno le escursioni sulle nostre montagne, Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Sarà raro, ma potrà capitare a qualcuno, e forse sempre più spesso, di fare incontri inattesi con animali che pensavamo ormai perduti per le nostre zone, come ad esempio il lupo, la lince o l'orso bruno. È un fenomeno il ritorno di questi animali da affrontare preparati, anche perché si tratta di predatori, il che non risveglia solo ricordi di antiche storie e leggende, ma innesta problemi molto concreti di convivenza con le popolazioni locali. D'altra parte, la presenza di questi animali potrebbe significare anche un'opportunità per il turismo. Di tutto questo si è parlato sabato scorso a Sedico, in provincia di Belluno, nel corso di un convegno organizzato dal Centro Studi del CAI e intitolato appunto «I grandi carnivori ritornano». E di questo vogliamo parlare oggi con Vittorio Ducoli, direttore del parco Paneveggio Pale di San Martino, che in questo convegno aveva anche il compito di inquadrare un po' il fenomeno. Benvenuto, direttore. Buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno anche noi, le chiediamo di fare un quadro di questo fenomeno in estrema sintesi, ma prima vorremmo anche sapere di quali animali stiamo parlando. Ma come ha detto lei, stiamo parlando essenzialmente dell'orso bruno, che è stato reintrodotto sostanzialmente in Trentino negli anni all'inizio a cavallo del nuovo secolo, del lupo, che invece sta tornando naturalmente sia dalle Alpi occidentali sia dalla zona della ex Jugoslavia, della lince, la cui presenza però è molto sporadica, che ha una popolazione in Svizzera e che quindi interessa anche sporadicamente le Alpi centrali e orientali, e dello sciacallo dorato, che sempre diciamo dall'est Europa sta arrivando nei nostri territori e in particolare in Friuli, Venezia Giulia e in Veneto. Ecco, il perché di questa colonizzazione? Ma guardi, chiamiamola se si può chiamare di colonizzazione. Sì, è una ricolonizzazione a tutti gli effetti, perché erano animali, a parte lo sciacallo dorato, erano storicamente presenti sulle Alpi. Alcuni si erano estinti completamente, come la lince e il lupo, mentre invece l'orso bruno aveva resistito, sia pur con pochissimi esemplari, nella zona della Val di Genova, qui in Trentino. La colonizzazione ha diverse cause, la ricolonizzazione, a parte diciamo i progetti di reintroduzione da cui si sono generate alcune di queste popolazioni, ad esempio la lince deriva da un progetto specifico di reintroduzione che ha curato la Svizzera, e l'orso bruno, come dicevo, il Trentino, la provincia autonoma di Trento appunto ha reintrodotto degli orsi bruni nella zona del parco naturale Ramello Brenta. Comunque la ricolonizzazione è un fenomeno, a parte questo, essenzialmente naturale, dovuto a diverse cause. La prima e più importante è sicuramente la rarefazione delle attività tradizionali in montagna, l'agricoltura, che una volta c'era il presidio sul territorio, che comportava anche una serie di cambiamenti ambientali importanti e comunque un controllo del territorio da parte dell'uomo, è venuto meno. Tutti noi abbiamo presente la diffusione del bosco che si è avuta in questi decenni a seguito appunto della diminuzione delle attività agricole tradizionali. Quindi più spazio per la digitalizzazione, più naturalità. Parallelamente a questo c'è stato, e anche in conseguenza di questo, un aumento delle potenziali prede di questi animali, gli ungulati, i cervi, i caprioli, i cinghiali, che fino a poco tempo fa erano estremamente rari sulle nostre montagne, oggi sono estremamente diffusi e chiaramente richiamano i loro competitori. E poi ci sono anche i cambiamenti normativi e culturali, quindi la diminuzione della persecuzione su queste specie. Pensi che fino alla metà degli anni 70 il lupo era considerato specie nociva e veniva abbattuto. Oggi è una specie, insieme all'orso, insieme agli altri che ho citato, è una specie particolarmente protetta sia dalle normative europee sia dalle normative nazionali. Quindi questi sono un po', diciamo, le motivazioni essenziali di questa ricolonizzazione. Direi che al centro ci sta il cambiamento del rapporto fra l'uomo e il territorio, ecco. Così ci sono anche altri animali, anche per esempio uccelli tipo l'aquila, stanno tornando, oppure è un po' più difficile? No, diciamo che anche altri animali stanno usufruendo di questa maggiore disponibilità di aree naturali. L'aquila sicuramente era presente con pochissime coppie sulle Alpi solo 30 anni fa e oggi invece è molto presente anche sui grandi rapaci, è in espansione l'aquila, anche sui grandi rapaci, altri grandi rapaci come il gipetto, sono state fatte azioni di reintroduzione che l'hanno riportato sulle Alpi e che oggi lo vede presente in parecchie aree delle Alpi occidentali e centrali. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. I feel crazy, such a classic tale. Current girlfriend, ex-girlfriend, I'm trying to be cool. I'm being paranoid, am I seeing things? Am I just insecure? I want to believe it's just you. Feels like there's three of us in here, baby. So I wait for you to call, and I try to act natural. But you've been thinking about her, about me. And while I wait, I put on my perfume. Yeah, I want. But I hope she smells my perfume. I'll never tell, tell on myself. But I hope she smells my perfume. I hide it well, hope you can tell. But I hope she smells my perfume. I hide it well, hope you can tell. But I hope she smells my perfume. She's in it with you. Please don't forget me. Do I imagine it? I catch these moments. I know you got history. But I'm your girlfriend. Now I'm your girlfriend. Trying to be cool. I hope I'm paranoid. But I'm just seeing things. That I'm just insecure. I want to. Just you and me. Sometimes it feels like there's three of us in here, baby. So I wait for you to call, and I try to act natural. But you've been thinking about her around me, and while torniamo in linea con la trasmissione del quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di grandi predatori che tornano a colonizzare le nostre Alpi e stiamo parlando con Vittorio Ducoli, direttore del parco Paneveggio Pale di San Martino, un parco che è al confine con il Veneto, no? Sì. Sì, non siamo molto lontani dal Veneto. Quindi questa situazione riguarda anche voi, il vostro parco e un po' tutta la zona anche delle prealpi? Sì, pensi che appunto il primo branco riproduttivo, la prima coppia riproduttiva di lupi delle Alpi orientali è in questo momento, da parecchi mesi, nella zona della Lessinia, al confine fra la provincia di Verona e la provincia di Trento. Ecco, parliamo di predatori, quindi parliamo anche di un pericolo possibile per l'uomo e poi forse non solo per l'uomo, ma forse il grande dibattito è rispetto anche alle attività economiche dell'uomo. Sì, io direi che per quanto riguarda il pericolo diretto per l'uomo mi sentirei di tranquillizzare gli ascoltatori, nel senso che non sono assolutamente probabili e diciamo che non sono neanche storicamente registrati casi di aggressione da parte di lupo o orso all'uomo. E quindi, perlomeno alle nostre latitudini, e quindi anche per l'elusività di questi animali, direi che è molto molto difficile incontrarli in bosco, incontrarli durante un'escursione, e anche se si dovessero incontrare, credo proprio di poter dire che il loro istinto è quello di scappare. Ecco, riguardo il problema degli animali, sappiamo che ci sono state anche sollevazioni di allevatori che hanno visto dei capi abbattuti da lupi o altri animali. Certo, questo è un problema sicuramente più importante, cioè il conflitto che questi animali possono generare con alcune categorie di operatori, quindi soprattutto gli allevatori, può essere potenzialmente molto importante, proprio perché essendo dei carnivori hanno la tendenza a mangiare anche, a cibarsi anche di animali domestici. C'è da dire che la loro dieta, anche perché sono animali intelligenti e sanno che vicino all'uomo c'è pericolo, la loro dieta è principalmente costituita da animali selvatici. Però può succedere, soprattutto in determinate condizioni, vicinanza appunto di greggi non custodite e così via, che ci siano dei danni anche importanti, e questo indubbiamente genera un conflitto, anche perché diciamo che queste categorie non sono attrezzate ancora per convivere, a differenza che in altri luoghi d'Italia ed Europa, per convivere con questi predatori. Per cui si tratta veramente di fare uno sforzo complessivo da parte della collettività, e di questo si è dibattuto molto al convegno, per da un lato indennizzare gli eventuali danni, risarcire gli eventuali danni, cosa di cui si deve far carico la collettività intera, ma dall'altro soprattutto di arrivare a misure di prevenzione, prevenire il danno o la maggior parte dei danni è possibile. Ci sono buone pratiche, ci sono esempi in giro per l'Italia e per l'Europa di luoghi in cui il danno è stato minimizzato, si tratta di attrezzarsi per tempo. Ecco, l'ultima domanda, questa presenza può anche essere un'opportunità, per esempio nel vostro parco avete già un'esperienza di questo genere, magari animali che hanno attirato anche visitatori, curiosità? Ma sicuramente questi animali attirano, più che nel nostro parco diciamo che il caso dell'orso nella Damello Brenta è emblematico da questo punto di vista, oppure è ancora più diciamo storico, perché coinvolge dall'origine del parco la presenza dell'orso nel Parco Nazionale d'Abruzzo, è sicuramente un fattore di grandissima attrattività del territorio, cioè sapere per un turista che magari non lo incontra ma che va in un luogo dove vivono questi animali è sicuramente un elemento di grande attrattività. Io credo che ci sia un ulteriore elemento anche qui in tema di mitigazione del conflitto anche con le categorie di produzione. Io credo che si possa anche qualificare il prodotto di chi produce formaggi, latticini o comunque carne in aree ad elevata naturalità in cui c'è la presenza dei carnivori, anche in termini di qualità, cioè è chiaro che per chi compra questi prodotti, sapere che vengono prodotti in aree in cui c'è una tale naturalità per cui è addirittura presente il carnivoro, che è l'elemento apicale dell'ecosistema, è quasi una garanzia di genuinità di questi prodotti, e quindi questi prodotti possono avere dei vantaggi competitivi. Credo che questa cosa vada gestita, sfruttata bene, anche qui con l'impegno di tutte le istituzioni coinvolte. Assolutamente, quindi benvenuti a questi grandi, a questi nuovi carnivori che tornano. Sicuramente benvenuti, dobbiamo attrezzarci per tempo, visto che stanno tornando e ancora per molti di essi, perlomeno nelle nostre Alpi centrali, la presenza è ancora sporadica. Abbiamo il tempo per attrezzarci e per gestire anche le eventuali problematiche. Bene, la ringrazio. Arrivederci. E continuiamo la trasmissione con le consuete notizie. Torna a Veneto Agricoltura la giornata virtuale dedicata alle bioenergie. Si parlerà di biometano e delle opportunità di investimento nell'ambito dei biocombustibili. Il prossimo giovedì 20 marzo, Cristian Curlisi del Consorzio Italiano Biogas e Stefano Guercini del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova saranno contattabili dalle 9.30 alle 17.30 via telefono e via mail, ma anche si potranno seguire i lavori su Twitter e su Facebook. Informazioni sul sito www.venetoagricoltura.org. Valorizzare il legno locale trasformandolo in barrique per vini pregiati autoctoni. È questo il progetto pilota che verrà presentato il prossimo venerdì 14 marzo alle ore 9 a Solighetto di Pieve di Soligo in provincia di Treviso. L'appuntamento organizzato da Terra SRL vuole riunire esperti del settore, cantine, imprese ed enti interessati per creare un gruppo di lavoro e dare avvio a questo progetto, il cui intento è valorizzare il patrimonio boschivo dell'arco della pedemontana alpina, integrandolo con la produzione vitivinicola locale, attivando una nuova filiera produttiva e creando prodotti di elevato valore commerciale e territoriale. Infine è stata presentata l'edizione 2014 di Vinitaly, che si tiene a Verona Fiere dal 6 al 9 aprile. Tra le novità di quest'anno c'è una maggiore apertura verso l'estero, con la presenza di espositori stranieri per la prima volta resa organica all'interno di un unico padiglione che prende il nome di Vini International, International Wine Production. Grande attenzione è riservata anche al mondo del biologico, grazie al debutto di Vinitaly Bio, salone specializzato riservato ai vini biologici certificati, realizzato con la collaborazione di Federbio. In contemporanea a questa rassegna, dal 6 al 9 aprile, tornano anche Sol and Agri-Food e Enolitech, i due saloni che completano l'offerta di Vinitaly con l'eccellenza del food e delle tecnologie per la viticoltura, l'enologia e l'olivicoltura made in Italy. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo l'appuntamento alla prossima con il quadrifoglio, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.